Vita della Beata Suor Leonella Sgorbati. Leonella Sgorbati nacque il 9 dicembre 1940 a Rezzanello di Gazzola, in provincia e diocesi di Piacenza. Lei era l'ultima dei tre figli di Carlo Sgorbati, il papà era un contadino, la mamma invece si chiamava Giovannina Vigilini. Giovannina era una donna profondamente credente, una donna di una cristianità unica. Intanto la nostra santa, la nostra beata, fu battezzata lo stesso giorno della nascita e le vennero imposti i nomi di Rosa Maria. Infatti Leonella, il nome di Leonella lo prenderà quando farà il suo ingresso nella congregazione. E proprio in questa sua numerosa famiglia composta, compresi vari parenti, da 21 persone, Rosetta, come la chiamavano tutti, ebbe esempi di grande fede, soprattutto dalla mamma, dicevamo. Lei infatti, Giovannina, dopo il lavoro nei campi, e possiamo immaginare quanto fosse faticoso, proprio per il tenere amore che nutriva la Madonna, si fermava spesso in chiesa per portarli i fiori, oppure per una visita al Santissimo Sacramento. Sapeva bene chi c'era in quell'ostia consacrata. Il papà Carlo invece le aveva insegnato, addirittura pregandola, abbracciandola teneramente, tenendola stretta tra le sue braccia, e lei si sentiva profondamente amata. Era una famiglia, dicevamo, credente, ma soprattutto metteva in pratica quello che il Vangelo diceva, come vedremo tra un attimo. E anche lei era una bambina serena, anche se a volte si mostrava irrequieta, e diciamo un po' più di ogni tanto, perché la mamma un giorno si trovò a esclamare: «Chissà quando sarai grande quanto mi farà tribolare». Insomma, non era sicuramente, diciamo, molto paziente. Anche nei giochi con i compagni mostrava un'attitudine al comando, ma non in maniera arrogante, era lei che organizzava, che coordinava. Già da piccola aveva, diciamo, questo dono. Frequentò nel frattempo l'asilo infantile e le scuole elementari presso le suore Orsoline di Maria Immacolata, che da alcuni anni avevano aperto una loro casa proprio lì nel paese. È probabile che la sua prima comunione, secondo l'uso dell'epoca, l'abbia ricevuta tra i 10 e gli 11 anni, mentre la cresima, che ricevette prima, la preparò nella scuola delle Orsoline di Maria Immacolata e le fu amministrato il 26 maggio 1947, quindi aveva 7 anni, della chiesa parrocchiale ad Aguzzano dal vescovo di Piacenza, Monsignor Menzani. Dicevamo, Rosetta aveva un esempio grande nei suoi genitori e questo esempio grande era anche imparare ad essere attenta non solo ai bisogni, diciamo, di se stessi, ma soprattutto anche degli altri, dei fratelli che avevano più bisogno. La povertà era davvero tanta, siamo nel dopoguerra, nell'immediato dopoguerra, quindi possiamo immaginare quanta necessità c'era. E lei allora, quando aveva il permesso di andare con la mamma al mercato a Gazzola, andava in particolare a visitare una donna molto povera che aveva diversi figli, si chiamava Marietta, e vedendo che soffriva il freddo, perché insomma c'era quello che c'era per potersi coprire, decise allora di comprare una sciarpa per lei, tenendo da parte i soldi che le davano i genitori per le sue piccole spese. Questo ci fa già capire, ecco, che cuore aveva questa, allora già da piccola, che desiderio di aiutare gli altri. Nel frattempo però, proprio in quegli anni, dicevamo, nell'immediato dopoguerra, insomma, sbarcare il lunario era difficile, quindi anche il papà, Carlo, decise di cambiare addirittura zona, di cambiare paese, e per cercare di migliorare anche sotto il profilo economico il benessere della famiglia, decise di avviare una rivendita all'ingrosso di frutta e verdura, ma addirittura a Sesto San Giovanni, quindi vicino Milano. E tutta la famiglia naturalmente lo seguì. Era il 9 ottobre 1950, la nostra beata aveva 10 anni. Aveva 10 anni proprio perché era piccola, soffrì tantissimo per il distacco dei luoghi dove era cresciuta, li aveva i suoi amici, le sue amichette, conosceva le persone, si trovava a suo agio, non si trovava invece bene lì, anche perché Sesto San Giovanni è comunque attaccato a Milano, quindi era un po' una città, no? Lei ha abitato sempre in campagna, quindi anche questa sua indipendenza faceva parte, no, del suo carattere, e la rendeva libera. E qui proprio questo suo atteggiamento, diciamo, di, non dico di rifiuto, ma comunque non aperto, le portava in rimprovero di diverse persone che le dicevano sei tutta da rifare, no? E questo era già una cosa non buona. Poi invece, dopo un anno, voi pensate, loro arrivarono a Sesto San Giovanni nel 50, nel 51, il 16 luglio, il Papa Carlo morì. Aveva 61 anni, fu una morte che nessuno ovviamente si attendeva, e insomma c'era un grande problema, al di là della grandissima sofferenza, lei era molto legata al papà, ma c'era anche poi da portare avanti la famiglia. Allora la mamma, naturalmente non aveva, diciamo, dei parenti a cui affidare i bambini, doveva essere lei a portare avanti quindi questo negozio e quant'altro. Fatto sta che gli disse che avrebbe frequentato le scuole medie, ma in collegio. Lei però non vide questa cosa come, diciamo, un aiuto alla mamma, la vide come una punizione per se stessa, proprio magari per questo suo atteggiamento di chiusura, e disse lei così, questo lo scrive, sono così malvagia, senza nemmeno saperlo, perché la vedeva come una punizione. Insomma, la sofferenza, cari amici, e l'amarezza nel cuore erano così grandi e tali da non poterli contenere. Iniziò quindi, cari amici, questo percorso nuovo per lei all'interno di un collegio, e all'interno del collegio era quello delle suore del Preziosissimo Sangue a Monza, e fu accolta in modo affettuoso, ma anche, nonostante tutto, anche la vita naturalmente in collegio le risultava pesante. Una delle religiose però, suora Adriana Sala, una suora acuta, e che le era molto vicino, un giorno le si avvicinò e le fece forse il regalo più grande della sua vita, senza che lei lo sapesse. Suora Adriana le porse un piccolo libro, questo libro era il Vangelo. Ebbene, sembra una banalità, ma da allora Rosetta, come era allora, come la chiamavano allora, cominciò a leggere e a meditare sempre più la parola di Dio, a trascorrere molto tempo nella cappella, sempre che all'interno dello stesso collegio. Allora, il Signore possiamo dirle che le rapì il cuore. Proprio in quei giorni, aveva 12 anni questa bambina, perché nell'aprile del 1952, quindi 12 anni, mentre pregava in cappella, lei scrisse così poi nel suo diario, ebbe un'esperienza speciale. E lei nel suo diario la annotò così: mi sono sentita abitata in quel lontano giorno, e tu mi hai tenuta in te, mio Signore, oppure sei rimasto tu in me, mai più sola, abitata. Quindi la presenza di Dio in lei era stata una cosa sconvolgente, l'amore del Signore l'aveva trasformata in quel momento, e la decisione, nonostante i 12 anni, nonostante il carattere che lei aveva, fu: sarei andata suora. E qui, terminati gli studi col conseguimento del diploma commerciale, Rosetta da Monza tornò a Sesto San Giovanni dalla mamma, dai parenti, eccetera, e tutti si stupirono di questo cambiamento che c'era stato in lei, un cambiamento, praticamente un ribaltamento unico. Non era più lei che era sempre irrequieta, sempre insomma un po' critica, no, nel fare le cose, la videro mite, dolce. Questa è la prima parte. La seconda parte, si sconcertarono quando lei manifestò il desiderio di consacrarsi al Signore. Ma la mamma, che la conosceva bene, naturalmente era contenta di questa cosa, no? Ma donna saggia e prudente, volle attendere per capire se era, diciamo, una vocazione vera. E allora le disse che si sarebbe fatta suora quando aveva 20 anni, quindi c'era un po' qualche anno ancora ad attendere. Ma lei non si fermò, partecipando intanto alla vita della parrocchia di San Giuseppe a Sesto San Giovanni, frequentando l'oratorio, si iscrisse anche all'Azione Cattolica perché desiderava iniziare questa, questo cammino nuovo, no? Quindi visitare anche e soprattutto i malati, e i malati saranno poi il tema della sua vita, come vedremo. Quindi tutti i mercoledì andava a visitare i malati, a portare una parola di conforto, a portare qualcosa, insomma, per condividere la cordialità, no? Soprattutto, e una buona parola. E si fece anche delle amiche, tra le quali Giuseppina. Giuseppina fu la migliore perché la sostenne anche nella lotta per la vocazione. Non tutti erano convinti di questa vocazione. Vocazione che nel frattempo aveva preso un indirizzo ben chiaro, cioè quello missionario. Lei si sentiva di essere missionaria. In oratorio poi aveva sentito parlare proprio delle missionarie della Consolata, questa meravigliosa congregazione femminile fondata da un sacerdote santo, dal canonico Giuseppe Allamano, è stato beatificato da San Giovanni Paolo II proprio negli anni 90, nel 1990. E il beato Giuseppe Allamano aveva fondato la congregazione maschile, ma anche questa femminile, appunto, delle missionarie della Consolata. Ma lei non si perde d'animo. Cosa fa? 20 anni, quindi dopo, si ripresenta pari pari alla mamma e dice: adesso ho 20 anni e non ho cambiato idea. E qui la mamma si rende conto, anche con sua gioia, che era vera questa vocazione. Cosa fa allora? Si prepara ancora per qualche anno prima di entrare come postulanda all'interno della congregazione. E il 5 maggio del 1963 si presentò appunto alla casa di San Fre, in provincia di Cuneo, la casa delle missionarie della Consolata, e 15 giorni dopo iniziò il postulandato. Nei 6 mesi successivi mostrò, possiamo dire, a tutte le suore, le future consorelle, quello che era il più bello di sé, la sua disponibilità, a ogni tipo di servizio, l'allegria soprattutto con cui lo compiva, il sorriso che la rendeva familiare a tutte le consorelle. E nel novembre dello stesso anno, finito il postulandato, celebrò quindi la vestizione religiosa, e proprio qui, questo giorno, ricevendo l'abito, Rosa cambiò nome e si chiamò da quel giorno Suor Leonella. Iniziò il noviziato il 21 novembre, sempre del 63, andando però nella casa generalizia di Nepi, in provincia di Viterbo. E sotto la guida della maestra delle novizie, Suor Paolina Emiliani, la nostra Beata imparò a essere ancora più fedele a questo progetto missionario voluto da questo santo sacerdote, da Giuseppe Allamano, attingendo anche dai suoi scritti bellissimi e anche dalla testimonianza delle altre suore che tornavano, diciamo, dalla missione, quindi dall'Africa o da altri paesi. E qui il 22 novembre, di 2 anni dopo, siamo nel 65, mise la prima professione religiosa. Cosa fecero poi? Le inviarono in Inghilterra, perché lei era già stata praticamente destinata al Kenya, e in Inghilterra la mandarono nella comunità, in una delle loro comunità, perché frequentasse la scuola per infermiere. L'impatto, perché lei non c'era, diciamo, visitava i malati, ma non aveva visto la morte, per esempio un malato morire, cosa che invece cominciò a vedere quando andò in Inghilterra, perché era all'interno dell'ospedale, e l'impatto proprio con la sofferenza fisica di tante persone, dicevamo con la morte, la portò a confidarsi con la superiora generale, cioè fu chiaro per lei il quadro. Vi leggo queste due parole che lei dice, che sono chiarissime, e dice alla superiora, scrive alla superiora generale così: o si crede in Dio, e allora non si può far altro che amarlo, amarlo e amarlo, donando naturalmente ogni sofferenza, o non si crede, e allora esiste solo la disperazione. Sono estremista, dice, non lo so, ma non vedo altra strada all'infuori di queste due, o Dio o il buio del nulla. E anche qui in Inghilterra, oltre, diciamo, a fare questa esperienza drammatica da una parte, perché prendeva proprio, ci metteva il cuore a cuore con chi in quel momento soffriva o addirittura moriva, e lei lo accompagnava, quando era presente naturalmente, e oltre a questo c'era anche un grande sacrificio, una grande fatica. Perché? Perché la scuola di ostetricia era distante 50 chilometri dalla comunità, dalla casa delle missionarie, quindi lei, diciamo, tornare per lei in comunità era sempre una grande gioia. Ovviamente non ci tornava tutte le sere, ci tornava una volta alla settimana o una volta ogni 10 giorni o 15 giorni. Quindi per lei tornare in famiglia, per lei ormai era la sua famiglia, era una gioia grande. E allora proprio per stemperare un po' anche, diciamo, la serietà, no? A volte magari che si poteva creare la sera, cosa fece? Si presentò alla ricreazione comunitaria indossando un paio di baffi di plastica. Questo ci dà l'idea anche della sua ilarità, meravigliosa ilarità. E disse così: ogni suora li indosserà e inizierà a parlare, poi li passerà alla vicina di destra e via così fino a chiudere il cerchio. Insomma, quel metodo fu utile perché ogni suora, anche diciamo quelle più riservate, quelle che magari si vergognavano un po', riuscisse a parlare un po' di sé alle altre. E fu una cosa bella. Intanto però, tornando nella scuola per infermiere, studiando medicina, perché lei non diventò solo infermiera, ma addirittura fece degli studi a livello universitario, parlando di medicina in questo caso, riusciva anche a trovare, a capire il modo di, possiamo dire, di coniugare la competenza, la preparazione medica con la fede. E scrisse alla madre generale questa cosa: io credo e ripeto al Signore la mia volontà di fede, il mio desiderio di luce, madre, com'è bella la fede, con la fede tutto è più facile. Cioè vedeva anche questo suo apostolato, no? Questo suo apostolato medico, questo suo aiutare gli altri alla luce del Vangelo, alla luce di Gesù. Allora la gioia era grande e cercava di trasmettere questa gioia, questo suo desiderio di essere del Signore anche agli altri, perché pur nella sofferenza in quel caso, quante consolazioni questa giovane sorella, oggi beata, ha portato a tanti ammalati e quante persone ha aiutato a morire in pace con il Signore. E arriviamo così nel 1969. Questo fu un anno particolare per lei, perché aveva 29 anni, morì la mamma. E possiamo immaginare, se la morte del papà fu una cosa drammatica, la morte della mamma fu devastante, perché ovviamente amava moltissimo la madre, era stata il suo esempio, le era stata sempre vicina, quindi sostenendola, no? Incitandola, anche nei momenti magari un po' critici, no? Anche del noviziato, eccetera. Ma con l'aiuto di Gesù e con la preghiera soprattutto, superò tutto, affidandosi ancora di più al Signore, al suo cuore, al suo sacro cuore e al cuore immacolato di Maria. Di Maria, vedremo, era devota in modo tenerissimo della Madonna, e adesso lo vedremo tra un attimo. Ma nel 69 conseguì anche il diploma, dopo tanta fatica, il diploma di infermiera di Stato, che dicevamo era una preparazione superiore a quella che classicamente viene data a un infermiere. E l'anno dopo concluse anche la prima parte del corso di ostetricia e arrivò qui anche il grande giorno. Siamo nel 19 novembre del 1972, quando emise i voti perpetui, gaudio totale nel suo cuore, perché si consacrava per sempre a Dio con gioia nell'apostolato missionario. Ce l'aveva proprio nel sangue la missione. E in quell'occasione, proprio per l'importanza del giorno, scrisse sul suo diario: Signore, che la mia vita sia una risposta. Cioè lei intendeva una risposta a questa tua chiamata. Io ho risposto con la mia vocazione donandoti tutta me stessa, ora fa sì che io possa donarmi totalmente agli altri come tu vuoi, Gesù, come è giusto che io faccia, secondo i tuoi desideri, i tuoi disegni. Già da 2 anni, dicevamo, lei era stata destinata alla missione in Kenya, più precisamente a Nkubu, nella regione del Meru, nel cui ospedale e nell'annessa scuola per infermiere erano già in servizio le altre consorelle. E lei era impegnata specialmente nel reparto maternità, seguiva anche un bel gruppo di allieve ostetriche, e queste allieve erano praticamente kenyote, quindi sarebbero rimaste lì loro per aiutare gli altri, diciamo, gli altri fratelli del Kenya in questo caso, non sarebbero venute via, ma sarebbero rimaste lì. In seguito poi divenne anche direttrice della scuola per infermiere, i quali, ecco, questa è una cosa molto importante, no? Che riguarda, diciamo, anche noi, soprattutto noi in Occidente. Lei insegnava a questi infermieri, a queste persone, non solo le competenze, diciamo, infermieristiche, le tecniche necessarie agli operatori sanitari, ma soprattutto lei sottolineava, insegnava ad essere capaci di accogliere il malato, di accoglierlo con comprensione, con amore, con carità, facendolo sentire a casa, soprattutto facendolo sentire amato, comunque voluto bene. E lei era, la trasmetteva questa gioia, questa fede, perché era profondamente convinta della bellezza della vocazione missionaria. Anzi, lei stessa era attenta a cogliere anche i segni della vocazione di qualche altra ragazza che era, faceva magari la scuola di infermiere, vedeva magari il suo desiderio di vedere, di capire. E allora ci viene detto, era capace di pregare per una settimana intera pur di ottenere da Dio la consacrazione di quella ragazza su cui aveva capito che poteva esserci un'apertura del cuore e quindi un ingresso all'interno della loro congregazione. E proprio per la sua profonda carità, la sua vita cristallina, ma anche la sua preparazione, nel settimo capitolo generale delle missionarie della Consolata, svolto nel 1993, dove lei portò non solo la sua ormai ventennale esperienza, ma portò anche le necessità delle comunità del Kenya, c'era bisogno di aiuti di altre consorelle che andassero ad aiutare, di altri dottori, anche di aiuti per quanto riguardava i medicinali, eccetera, e non si poteva fare, bisognava arrangiarsi con quello che c'era. Sa di fatto comunque che le consorelle, proprio per la stima che nutrivano di lei, la elessero superiora regionale. Allora, diventando superiore regionale, cioè di quella regione, lei si sentì nel cuore di scrivere una lettera a tutte le consorelle e in quell'area. E lei scrisse delle parole bellissime, cari amici, e questo ci dà l'idea proprio della grande fede, della fede vera che questa donna aveva. Allora, lei scrive così, incitando le sue consorelle. Noi, dice, sia individualmente che come comunità, dobbiamo renderci disponibili al processo dell'incarnazione del Figlio in noi, cioè di Gesù in noi, per poter essere la consolazione del Padre, di Dio Padre. Cosa significa questo in pratica? Significa accogliere che il Figlio, cioè che Gesù, sia libero in ciascuna di noi, in me, libero di perdonare attraverso la mia persona a chi mi reca offesa, libero di spezzare il pane della bontà, della comprensione nella mia comunità, libero di farmi percorrere l'itinerario che il Padre ha fatto fare a Lui, con le scelte che il Padre indica, libero di farmi percorrere il cammino della pazienza, della mansuetudine, dell'umiltà che passa attraverso l'umiliazione, libero, dice, di poter dire attraverso di me, lo Spirito del Signore su di me, mi ha consacrato e mi manda a portare la buona notizia ai poveri, la libertà ai prigionieri, ad annunciare l'anno della consolazione, a ricostruire le antiche rovine, cioè i cuori. Libero Gesù di amare attraverso di me con l'amore più grande, l'amore che va fino alla fine, che è più forte dell'odio e dell'inferno, nella verità, nella pratica di ogni giorno e di ogni momento. Questa è una parte della lettera che lei inviò a tutte le consorelle dell'area di cui era superiora. E terminato il suo mandato, lei entrò a far parte anche dell'equipe dei sabbatici, cioè di occuparsi delle missionarie che avevano bisogno di qualche tempo di riposo. Noi sappiamo che, insomma, a livello di apostolato missionario, comunque di missione, ma anche la missione è anche chi si occupa naturalmente qui nei nostri paesi di annunciare il Signore e di viverlo. Insomma, il riposo ci vuole, perché in effetti è molto faticoso, no? Gioioso ma molto faticoso. E dal 2000 al 2005 riservò le sue attenzioni alle consorelle di passaggio, accogliendole, facendole sentire a casa loro, prestandosi per tanti servizi, anche i più piccoli, anche i minimi. E il suo carattere ormai aveva acquisito quella dolcezza, quella disponibilità, quell'affabilità, no? Aveva perso anche le asperità di un tempo. Insomma, da testarda, anche di fronte a difficoltà insormontabili, si era fatta più umile, più paziente. Aveva nel cuore un solo cruccio. Lei diceva: vorrei poter dire che quel poco che ho fatto, l'ho fatto solo per Dio. Intanto, nel novembre del 2001, Suor Leonella fu destinata alla piccola comunità che le missionarie della Consolata avevano in Somalia. Allora, la Somalia, il 99,9% della Somalia ovviamente è all'Islam, e quindi erano tutti musulmani. Ci sono tante bravissime persone, però c'erano e ci sono ancora tutt'oggi dei fondamentalisti che creano pericolo e che adesso vediamo un attimino di approfondire. Lei in Somalia avrebbe dovuto fondare una scuola per infermieri proprio nella capitale, a Mogadiscio, come la stessa, uguale a quella di cui si era occupata in Kenya, qui a Mogadiscio in collaborazione con un'altra Onlus, soprattutto per aiutare in questo ospedale i bambini, quindi era soprattutto per la pediatria, no? E possiamo immaginare, non c'è nulla lì. Il compito, dicevamo, non era facile. Innanzitutto doveva essere chiaro e dimostrare che le nozioni scientifiche da lei impartite ai ragazzi e alle ragazze che frequentavano la scuola non andavano contro i principi del Corano. Poi doveva mettere in chiaro che non intendeva obbligare nessuno a convertirsi, nessuno degli allievi a convertirsi, non facendo quindi opera di proselitismo, proprio perché era pericoloso, no? Quindi bisognava chiarire queste cose. Voi pensate che era ed è talmente pericoloso che la piccola comunità, erano poche suore, non aveva neanche un cappellano, ma neanche in modo saltuario. Quindi, cioè, era l'unica presenza cattolica cristiana in quel luogo. E la presenza di Gesù nell'Eucaristia era assicurata, sebbene le suore la conservassero perché non venisse rubata o profanata, in un mobile nascosto in un angolo del corridoio della loro casa. Ma la cosa bellissima qui è che era l'unico tabernacolo, da quello che sappiamo, l'unico tabernacolo in tutta la Somalia. Intanto nel 2006 lei tornò in Italia per un breve periodo. Si trattava del cosiddetto mese allamaniano, cioè un percorso di preghiera, di riflessione personale per tutte le missionarie, centrato proprio sulla meditazione della parola di Dio e sugli scritti del Beato Fondatore. Infatti il mese allamaniano prende nome proprio da Giuseppe Allamano. È proprio un momento prezioso, lo dicevamo, perché offre la possibilità ad ognuna delle missionarie di avere tempi più distesi, che non possono avere quando sono in missione, sia per la contemplazione che per l'adorazione eucaristica. E sono stati giorni molto importanti questi per lei. Lei ha lasciato traccia proprio nel suo diario di quanto il Signore voleva dirle in quel preciso momento della sua vita, quasi a prepararla a quella che sarà poi l'epilogo finale. E quei giorni, proprio meditando sul capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, lei annotava con stupore: se il mio corpo è il suo, sono una cosa sola, se il suo sangue è il mio, sono una cosa sola, allora è possibile essere sempre in lui dono d'amore, dono di lui per tutti, sempre, in ogni momento, allora è possibile testimoniare sempre che lui c'è e ci ama. Quello che leggiamo dal suo diario, possiamo dire che già in quel momento lei è una cosa unica con Gesù, perché sono parole che toccano veramente il profondo dell'anima. Intanto però, in occasione di una delle visite al santuario, una visita, perché non è che ci andava spesso, è quando veniva in Italia, in una visita al santuario della Consolata a Torino, che il Beato Allamano aveva contribuito a restaurare, proprio quel giorno si affidò completamente alla Madonna, si sentiva chiamato, come suggeriva il brano del Vangelo del giorno, a morire per dare frutto. E proprio sulla tomba del beato fondatore, Suor Leonella nota queste parole e dice al suo fondatore: «Padre, eccomi qui, a 80 anni dalla tua entrata in paradiso, uomo di Dio, uomo fedele, uomo del Dio solo. Tu non hai avuto paura di seguire il Signore sulla strada della sequela. Eccomi qui, appoggiata alla tua tomba. Tu, santo fondatore della mia famiglia, qui, su questa tomba di gloria, io ti prego, donami la grazia della sequela vera, cioè di seguire veramente Gesù, della perseverante sequela. Donami di donare nella verità la mia vita con Lui, ogni giorno, momento per momento, con fedeltà, verità, in reciprocità, in totale unione. Concedimi questa grazia, compi questo miracolo. Questo è il dono che ti chiedo, essere veramente tua figlia nella sequela di Cristo. Nell'unione a Gesù Cristo mi consacro qui, nelle tue mani, rinnovando i miei voti al Signore. Quando io dico che io e Lui nell'Eucaristia, saldati, siamo una cosa sola, allora io non mi appartengo più, è una totale consegna. Allora Lui, Gesù, può disporre di me per l'avvento del Regno». E poi, dicevamo, questo grande e tenero amore per la Madonna. Rivolgendosi a lei, Suor Leonella dice: «Maria, Madre mia, anche io mi sono consegnata, voglio essere carne, corpo suo nell'Eucaristia con Lui, suo sangue, vita donata. Madre tenerissima, rendimi mite. Anch'io non ho bisogno di sapere cosa Lui vuole fare. Mi basta tenerlo per mano e camminare dove Lui guida». È un periodo, è un desiderio profondissimo di donazione totale proprio della vita. Ed è quello che sarà, quello che farà. E proprio per questo desiderio totale della vita, questa donazione, mi riaggancio a quello, per esempio, al periodo in cui lei fu superiore regionale, lei rimase colpitissima dalla storia, sappiamo, dei 7 monaci trappisti uccisi in Algeria, a Tibirine, nel 1996, e consegnò, quando era responsabile, superiore regionale, consegnò una copia del primo libro uscito su questi frati trappisti, monaci trappisti, lo regalò, lo inviò ad ognuno di loro, una copia di questo libro. E lei scrive in quei giorni: «Mi ritorna in mente la frase di Più forti dell'odio», questo è il titolo appunto del libro, ma dice anche: «Il martirio non può essere visto come un'impresa eroica, come un gesto di persone valorose, ma come il naturale evolversi di una vita donata». E il rischio in Somalia era chiaro, tanto più che continuavano le minacce contro queste suore, questo piccolo nucleo di suore, e il loro operato nell'ospedale. Voi pensate che, dicevamo, erano lì, rischiando la vita, per cercare di aiutare soprattutto in modo particolare i bambini. C'è un episodio, una volta fu ricoverata anche una donna, una mamma, perché perdeva molto sangue, e Suor Leonella immediatamente, senza timore, andò lì per donare il suo sangue, e lei, che era musulmana, non perché era musulmana, ma perché probabilmente aveva, diciamo, era stata condizionata anche da determinate ideologie, rifiutò il sangue a costo di rischiare la morte. Rifiutò il sangue perché dice: «Non voglio sangue cristiano nelle mie vene». E questo loro operare all'interno dell'ospedale non era ben visto, allora era ben visto naturalmente da moltissime persone, dalla stragrande maggioranza, ma da alcune veniva addirittura fomentato un odio, anche dalla stampa locale, per esempio, che stigmatizzava questa presenza cristiana in un paese musulmano, no? Poi pensate un po'. Comunque, riferendosi anche allo scampato pericolo di una consorella, Suor Marzia Feura, Suor Marzia, sempre lì, gli avevano lanciato una granata contro. Grazie a Dio era rimasta illesa, non erano riusciti a colpirla, ma questa cosa aveva lasciato la nostra beata molto scossa. Cercò comunque di sdrammatizzare, sdrammatizzando disse questa frase: «Chissà se un giorno non ci sarà una pallottolina anche per me, da parte dei miei amici fondamentalisti». Aggiungendo però subito con grande fede: «Sono nelle mani di Dio, disposta a tutto». Naturalmente lei aveva il cuore aperto a tutti, amici e nemici, per lei non esistevano i nemici, esistevano dei fratelli. E vedremo anche perché amava i nemici, tra un po' lo vedremo. Intanto arriviamo al giorno della consegna dei diplomi ai neoinfermieri, erano 10 ragazzi e 10 ragazze, adesso vi spiego perché lo dico. Lei preparò una grande festa, era una cosa solenne, no? Era una bellissima cosa, anche questi ragazzi e queste ragazze sarebbero rimaste nel paese per aiutare, quando c'era bisogno di tanto personale, per aiutarle proprio a guarire, a medicare, ad aiutare in ospedale. Cosa fece? Per rendere ancora più solenne questa occasione, fece loro indossare anche la toga tipica dei neolaureati, no? Abbiamo presente quella nera. E quell'evento, proprio perché era grande, fu trasmesso anche in televisione, nella televisione locale. Ma cosa fece? Invece di far gioire le persone, almeno gli integralisti, ebbero esattamente l'effetto contrario. Cioè, fece pensare loro che Suor Leonella avesse convertito i giovani facendoli già vestire da preti. Cioè, avevano preso praticamente la toga per un vestito da prete. Allora, la cosa mise in allarme un po' tutto, perché ormai si capiva che l'aria che si fiutava era aria velenosa. E un mese dopo lei si accorse che un uomo circospetto si aggirava da diversi giorni nei pressi della scuola. La fissava lungamente ma non diceva nulla. Proprio in quei giorni, il 12 settembre del 2006, poi Papa Benedetto XVI, lo ricordiamo, aveva citato in un discorso a Ratisbona, un discorso importante a Ratisbona, aveva citato una frase dell'imperatore Emanuele il Paleologo che contrastava ovviamente l'Islam. E qui venne fuori un polverone, sappiamo che suscitò reazioni violentissime in tutto il mondo musulmano perché fu frainteso, no? In buona parte, il Papa non voleva offendere assolutamente nessuno, poi è una persona santa, insomma. Comunque, a quella notizia, Suor Leonella non si spaventò per sé, si spaventò per il Papa, per la Chiesa, quindi non pensava a sé e invitò allora tutte le altre suore non a pregare per loro, ma a pregare e soprattutto a offrire molto per il Santo Padre e per la Chiesa. E arriviamo così, cari amici, al giorno fatidico, era il 17 settembre del 2006, era domenica, un giorno ordinario della settimana in terra somala. Lei, Suor Leonella, come al solito, uscì presto per recarsi alla scuola per infermieri. Le consorelle invece erano rimaste a casa perché avevano lavorato il venerdì sostituendo il personale musulmano che, sapete, il venerdì celebra il giorno festivo. Il percorso era breve, brevissimo, di pochi metri, ma era rischioso, era così pericoloso, voi pensate, che per compierlo era necessaria una guardia del corpo. Si trattava di lasciare il villaggio SOS, attraversare quindi la strada ed entrare nella sede della scuola, insomma pochi metri che in ogni altra parte del mondo sarebbero stati un dettaglio insignificante, ma non lì, a Mogadiscio, e infatti non lo furono. Alla fine delle lezioni la nostra Beata uscì quindi dall'edificio, sorrise a Mohamed, che era la sua guardia del corpo, che la stava aspettando per accompagnarla e proteggerla, e si avviò verso casa. Voi pensate che Mohamed era papà di 4 figli ed era musulmano, eh? Dopo aver fatto pochi passi, si udì una raffica di mitra. Praticamente un proiettile l'aveva colpita. Anche Mohamed cercò di reagire, ma anche lui fu colpito a morte, infatti morì. Suor Leonella allora, con quelle poche forze, cercò di trascinarsi e di fare qualche metro in più verso l'ospedale, ma fu colpita di nuovo dai sicari e si accasciò sulla strada. La gente intanto accorse, la prese, la portò dentro l'ospedale e qui la cosa bella fu che i tantissimi studenti che erano a scuola lì fecero a gara per donare il sangue, aveva perso molto sangue, quindi aveva bisogno di trasfusioni. In casa intanto le altre missionarie della consolata sentirono gli spari, il trambusto in strada, ma non ebbero nemmeno il tempo di farsi la domanda, quando qualcuno immediatamente bussò alla porta e avvisò di quello che era successo e si precipitarono all'ospedale. Suor Leonella era pallidissima. Trovarono lì un via vai febbrile di infermiere, di dottoresse, insomma, che tentavano in tutti i modi di salvarla con l'ossigeno, con le trasfusioni e anche la sua guardia del corpo. Lì era madida di sudore, ma era cosciente. Mosse le labbra livide e sussurrò, fatico a respirare. A un certo punto però incamerò, possiamo dire, l'aria sufficiente per chiamare la sua consorella, suor Gianna Irene, che subito accorse, avvicinò il suo viso a quello di Leonella. E qui è proprio suor Gianna Irene che ricorda così. Non c'era segno di paura o di tensione sul suo volto, nemmeno ansia, ma una grande pace. Si vedeva che voleva dire una cosa importante che le stava a cuore e con un fil di voce disse: perdono, perdono, perdono. Perdonava i suoi uccisori. E anche qui atteso il chirurgo che arrivò di corsa, ma quando arrivò non poteva fare altro che constatare il suo decesso. Era domenica 17 settembre, erano le 13:45. La nostra Beata aveva 66 anni, 36 dei quali vissuti per la missione in Africa. Il suo corpo da lì fu portato poi a Nairobi, dove alcuni giorni dopo si svolsero i funerali. Erano presenti tutte le massime autorità civili, i missionari e le missionarie della consolata, gli allievi della scuola infermieri, attornata da una folla enorme. Proprio era voluta bene questa nostra apostola. E proprio nell'omelia il vescovo di Gibuti, Monsignor Giorgio Bertin, disse: lei era convinta che una nuova Somalia, guarita dal flagello della guerra civile, è possibile. La sua vita, il suo sorriso e la sua innocenza ci dicono che un nuovo mondo è possibile, una nuova Somalia è possibile. Lei, dice il vescovo, fu ispirata dalla convinzione che il nuovo mondo che Gesù è venuto ad annunciare è già cominciato qui, sulla terra, e non è una coincidenza che morì insieme a un uomo musulmano. Vivere insieme, nonostante le differenze, richiede la conversione del cuore, speranza, determinazione e perseveranza. E pensate, proprio Papa Benedetto XVI, nell'Angelus di della settimana dopo, domenica 24 settembre, la ricordò con queste parole. Questa suora, disse il Papa, che serviva i poveri e i piccoli in Somalia, è morta pronunciando la parola perdono. Ecco la più autentica testimonianza cristiana, segno pacifico di contraddizione che dimostra la vittoria dell'amore sull'odio e sul male. E proprio a fronte delle tante attestazioni che confermavano la fama di martirio della nostra Beata, nel 2011 il capitolo generale delle missionarie della Consolata chiese di poter iniziare le fasi preliminari per la causa di beatificazione e poi canonizzazione. Nel frattempo, il 30 settembre del 2017, i suoi resti mortali sepolti nel cimitero di Nairobi, in Kenya, furono sottoposti alla ricognizione canonica e nel dicembre successivo furono posti poi invece nella cappella del Flora Hostel di Nairobi, della comunità delle missionarie della Consolata. Qui l'8 novembre del 2017, ricevendo in udienza il Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Papa Francesco autorizzò la promulgazione del decreto con cui la nostra suor Leonella veniva riconosciuta come martire e la sua beatificazione fu celebrata il 26 maggio 2018 proprio nella cattedrale di Piacenza. Ma io vorrei anche dirvi diciamo a conclusione delle belle parole che ci fanno capire ancora meglio la figura di questa grande apostola del cuore di Gesù, che ha donato la vita per gli altri, di quello che ha scritto proprio la sua postulatrice, suor Renata Conti, e dice così: Unita al Signore Gesù la vita di Suor Leonella, acquista il profumo del Vangelo e parla. Racconta la bellezza di un'umanità piena e affascinante che ha saputo reinterpretare le dimensioni fondamentali dell'esistenza alla luce della fede. E così, dice il profumo del Vangelo, che sovrabbondanza di amore, è diventato espressione del dono totale fino allo spargimento di sangue. E dice Suor Renata, ci sono oggi chiese locali che vivono in maniera particolare la loro testimonianza in un contesto di persecuzione e di lotta. Prima tra tutte la piccola e nascosta chiesa della Somalia, come pure quella del Sudan, della Palestina, dell'Indonesia, della Cina. Un numero crescente di cristiani però continua a testimoniare, anche a prezzo della vita, che l'amore è più forte della morte e non si lascia fermare da essa. E quando la violenza si scatena contro di loro, le loro parole di perdono, come quelle pronunciate da Suor Leonella, sono l'esempio di come il vivere con lo sguardo rivolto a Gesù renda capaci di affrontare anche la morte pronunciando parole di vita. Sono parole bellissime della postulatrice che ci dice anche di quante grazie la nostra Suor Leonella sta distribuendo a tanti devoti. Quindi speriamo presto di vederla poi anche canonizzata. E concludo con quello che l'allora superiora generale delle missionarie della Consolata, siamo nel 2007, così affermava subito dopo il martirio della nostra Beata in una lettera, pensate, che le inviò a tutte le missionarie del mondo della Consolata, a tutte quante. E sono due parole, con questo concludiamo la trasmissione di questa sera. Disse allora Madre Gabriella Bono, il martirio di Suor Leonella è stato un richiamo fortissimo a vivere il martirio quotidiano dell'amore. Quello col grembiule, quello nascosto e umile, ma efficace come il seme, che nell'oscurità della terra è promessa di vita vera, straordinaria nell'ordinario, nella quotidianità del servizio, fino al dono totale di sé, nel nascondimento e nella semplicità.